Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Eccomi cari ascoltatrici e cari ascoltatori, un problema tecnico per cui in realtà volevo farvi sentire la voce della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha detto in un modo piuttosto sentito e anche inaspettato in italiano, si è sforzata di parlare in italiano, parlava anche piuttosto bene, dicendo siamo tutti italiani, mostrando la grande solidarietà all'Italia per la situazione molto difficile che stiamo vivendo in Europa e anche nel mondo, perché dopo Cina e Corea del Sud siamo il terzo paese, quarto è la Spagna per quanto riguarda i contagi e poi il grande impatto economico anche purtroppo sulla nostra economia. Oggi il governo ha parlato di grossi stanziamenti di cui poi dibatteremo tra poco e anche approfondiremo l'argomento tra i vari argomenti, e poi ci sono le altre grandi notizie, cioè la dichiarazione dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha decretato, lo si aspettava da tempo, che questa epidemia di coronavirus è diventata una pandemia ormai sparsa in tutto il mondo, e ha apprezzato le misure aggressive che finora ha adottato l'Italia, ma sapete che Lombardia, la regione Lombardia, ma non solo, anche altri presidenti di regione, anche da parte di alcuni amministratori del centro-sinistra, vengono chieste misure molto più drastiche di quelle adottate finora per contenere il coronavirus. E poco fa un dispaccio di agenzia che diceva, secondo la dichiarazione del Presidente del Consiglio Conte, tra poco ci saranno delle informazioni, degli aggiornamenti molto molto importanti, quindi ci aspettiamo a momenti un'altra conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte, così come è stato lunedì, ve l'ho fatta sentire in diretta, dovremmo riuscire ancora durante la puntata di Effetto Notte a farvi sentire le dichiarazioni di Conte, insomma tante cose come sempre da raccontarvi, per lo più purtroppo legate alla pandemia di coronavirus. Roberta Giordano con voi, per i vostri commenti avete la pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666. Tra gli ospiti ci sarà anche il professor Pregliasco, notissimo virologo, per le domande e anche per chiedere questa pandemia che cosa effettivamente, passare da un'epidemia a una pandemia, cosa può cambiare. Poi tante naturalmente sono le altre domande, ma partiamo con la sintesi della giornata. Coronavirus, l'OMS dichiara che siamo di fronte a una pandemia. Nei giorni e nelle settimane a venire prevediamo un aumento dei numeri dei casi, del numero di morti e del numero di paesi colpiti. Le reazioni dei mercati: Wall Street crolla, Dow Jones meno 6,15%, Nasdaq meno 5,23%, lo Standard & Poor's 500 perde il 5,54%. Il contagio in Italia: sono 10.000 contagiati, 1.000 i guariti. Conte assicura ce la faremo e il governo stanzia 25 miliardi e chiede flessibilità all'Europa. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, assicura solidarietà, dice siamo tutti italiani. Lombardia, il Presidente Fontana chiede al governo di chiudere tutto, negozi, uffici, alberghi, anche Piemonte e Veneto pronti a chiedere una stretta. Vi dicevo poco fa la dichiarazione di Conte che dovrebbe a momenti dare delle indicazioni molto importanti. Stati Uniti, l'ex re di Hollywood, il produttore Harvey Weinstein, condannato a 23 anni. E poi lo sport nel caos, rinviate Siviglia-Roma e Inter-Getafe, un caso ad Hannover, un primo calciatore professionista positivo. Per lo sci cancellate le gare anche di Coppa del mondo di sci femminile previste nel fine settimana a Are in Svezia. Per effetto di questa decisione Federica Brignone conquista la Coppa del mondo. Partiamo quindi dalle dichiarazioni dell'OMS. L'epidemia di coronavirus è diventata una pandemia. Nei giorni e nelle settimane, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Prevediamo un aumento del numero di casi, del numero di morti e del numero di paesi colpiti. Siamo incoraggiati, però, ha detto Ghebreyesus, dalle misure aggressive adottate dall'Italia. Speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni. Intanto le reazioni dei mercati con lo Wall Street poco fa. Questi dati: peggiore, il Dow Jones perde il 6,15%, il Nasdaq cede il 5,3%, mentre lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno il 5,54%. Nuova seduta negativa anche per le borse europee: Londra ha perso l'1,4%, Madrid lo 0,6%, Parigi lo 0,57%, Francoforte lo 0,35%. Piazza Affari chiude in leggero rialzo con una seduta però nervosa. Il bilancio In Italia sono 10.590 i malati di coronavirus nel nostro paese, 2.076 più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati, quindi comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto i 12.462. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime sono complessivamente 827 e rispetto a ieri sono 196 in più, 1.045 i guariti, 41 più di ieri. Borrelli ha anche commentato sulla richiesta di una chiusura totale, ha detto il governo non ha ancora deciso, ci saranno valutazioni da parte degli scienziati, non sono diverse per il momento da quelle precedenti, ma la notizia, come vi dicevo, è che poco fa il Presidente del Consiglio Conte ha detto che in serata darà importanti aggiornamenti proprio a proposito delle richieste di misure più drastiche da parte della Lombardia e non solo. In attesa di possibili nuove misure per arginare il contagio, a Milano si vive così. Non va bene, troppa gente. Noi in ospedale dobbiamo andare a lavorare, non possiamo neanche fare le ferie. Però secondo me ci deve essere il blocco totale. C'è troppa gente in giro, mi dice così un medico di Saronno, mascherina, guanti e occhi stanchi. Sebbene a ranghi ridotti, la città di Milano non si ferma tra chi è obbligato ad andare al lavoro e chi invece sottovaluta le indicazioni delle autorità. Qui siamo all'interno di un bar. Dobbiamo servire a un metro. Difficile farglielo capire agli anziani. Lei distribuisce acqua minerale in giro? Sì. Sono delle mascherine sul furgone. Eventualmente le metto quando entro in casa della gente. Avendo fatto il militare, passi tutto. Chi usa i mezzi pubblici cerca di rispettare la distanza di sicurezza, sebbene appaia a tutti sempre più difficile. Avete preso il treno? Sì. Precauzioni? Mascherina. Lei anche ha preso il treno delle Nord? E adesso vado a prendere la metropolitana. Da dove viene? Paderno Dugnano. Non l'hanno lasciata a casa da lavoro? Per adesso no. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi, questa dunque è la situazione italiana, ma il contagio aumenta anche negli altri stati, soprattutto in Europa. Parleremo con l'Italia per vedere come sostenerla, ha detto Angela Merkel, nel giorno in cui la Germania registra la sua terza vittima e il primo caso di contagio di un calciatore di Serie A, il difensore dell'Hannover, Timo Ubers. Chiudere le frontiere non è il modo adeguato per risolvere il problema, ha continuato la cancelliera tedesca, la cui previsione shock stima che il 60-70% dei tedeschi verrà contagiato. Anche la Francia, con quasi 180 casi di Covid-19 e oltre 30 morti, si prepara al peggio. Se domani ci fosse motivo di adottare misure come quelle italiane, lo spiegheremo e lo faremo, ha detto il presidente Macron. Tra i paesi più colpiti, la Spagna, che ha superato i 2.000 casi di coronavirus e registrato 47 morti. In Ungheria il governo Orban ha proclamato lo stato di emergenza, essendo impossibile per Budapest quantificare i casi di contagio, visto che c'è solo un ospedale in grado di effettuare i test sul virus. E mentre l'Ungheria impedisce gli ingressi agli italiani e l'Austria reintroduce i controlli alle frontiere, i cieli si chiudono. Lufthansa ha annunciato la cancellazione di 23.000 voli da qui a fine aprile. Le britanniche EasyJet e Jet2 hanno sospeso tutti i voli da e per l'Italia. Stessa cosa per Brussels Airlines. Niente più aerei anche dall'Ucraina, il Kuwait ha sospeso tutti i voli commerciali da e per Kuwait City. Navi italiane in quarantena in Martinica, una costa magica, e a Tunisi, nel cui paese salgono a 7 contagiati. Il tutto mentre gli Stati Uniti, che hanno ormai oltre 1.000 contagi e 31 morti, puntano il dito contro la Cina. Il modo scorretto con cui ha fronteggiato l'epidemia, afferma Washington, ci ha fatto perdere 2 mesi preziosi per combattere il virus. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo adesso, per quanto riguarda l'Italia, alle azioni del governo per dare fiato a un'economia travolta dall'emergenza coronavirus. 25 miliardi per tamponare l'emergenza economica scatenata dall'epidemia coronavirus. A tanto ammontano le risorse stanziate dal governo, risorse da utilizzare in più tappe, dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il primo decreto da 12 miliardi con le misure per imprese e famiglie dovrebbe approdare venerdì in Consiglio dei Ministri, anticipa Roberto Gualtieri. Fra le misure in arrivo c'è la sospensione dei mutui sulla prima casa, il rinvio dei pagamenti di tasse e contributi, cassa integrazione speciale per tutti, aiuti per i lavoratori autonomi. La scelta di aumentare il deficit rispetto agli obiettivi fissati, spiega il ministro dell'Economia, è frutto della situazione eccezionale che il Paese sta vivendo. Ma non mette dunque a repentaglio la sostenibilità di lungo termine delle nostre finanze pubbliche. Quando questa fase sarà dietro di noi, riprenderà il percorso di aggiustamento e quello di crescita. Il primo pacchetto di aiuti vale lo 0,6% del PIL e porterebbe il deficit di quest'anno al 2,7%, spiega Gualtieri nella lettera inviata alla Commissione europea per illustrare la richiesta di sforamento degli obiettivi prefissati. L'Unione europea, dice il ministro, deve rispondere all'emergenza usando non solo la flessibilità di bilancio, ma anche misure di stimolo fiscale per la crescita. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'Unione Europea si schiera a fianco del nostro paese, la Commissione farà tutto il possibile per supportare l'Italia, spiega la presidente von der Leyen in un videomessaggio. L'Italia è parte dell'Europa e l'Europa soffre con l'Italia. In questo momento in Europa siamo tutti italiani. È necessario un costante confronto, il massimo della trasparenza. Su questo c'è una crescente consapevolezza in Europa, commenta il ministro della Salute Speranza. Aiuti sul fronte sanitario dunque dall'Europa, ma soprattutto da Bruxelles si fa capire che non ci saranno particolari rigidità sul lato economico per misure extra deficit. Di fatto quel ricorso alla flessibilità, a tutti gli strumenti necessari auspicati dal premier Conte. C'è la disponibilità a valutare, a dar fondo a tutte le risorse necessarie e a tutti gli strumenti necessari. Fronte politico italiano compatto intanto nel sì in Parlamento allo scostamento di bilancio necessario al varo dei provvedimenti economici per affrontare l'emergenza. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. C'è una precisazione della Slovenia che dice che non ha chiuso il confine con l'Italia ma ha limitato l'accesso a soli 6 punti di valico. Questa cosa la diceva anche ieri un'ascoltatrice che ha scritto qui effetto note, chiudendo tutti gli altri per, quindi solo 6 punti di valico, chiudendo tutti gli altri per poter meglio controllare gli ingressi. Lo ha detto il ministro della Salute precisando che gli stranieri possono entrare solo se in possesso di un certificato medico rilasciato loro dall'autorità competente non più di 3 giorni prima che attesti la negatività al coronavirus. Adesso una notizia dall'estero, un po' diversa da tutto questo. Si tratta dell'ex re di Hollywood, l'ex produttore Harvey Weinstein, che è stato condannato a 23 anni di prigione da un tribunale di New York dopo che il 24 febbraio era stato riconosciuto colpevole di aggressione sessuale e stupro di terzo grado. L'ex produttore cinematografico rischiava fino a 29 anni. Dopo il verdetto ha accusato un malore, gli è stato impiantato uno stent cardiaco. La procura aveva chiesto una pena esemplare perché, dice Weinstein, ha alle spalle una vita di abusi. Di nuovo in Italia, ad oggi, segnala l'UNESCO, sono 16 paesi del mondo che hanno fermato ogni attività educativa in presenza per un totale di più di 360 milioni di studenti a casa tra scuole e università. E adesso i viaggi di Radio 24. I viaggi di Radio 24. Siamo alla terza puntata di questo viaggio fra le scuole più innovative d'Italia che non si sono fatte trovare impreparate dall'emergenza coronavirus e ci porta ad Ancona questa volta, all'Istituto Superiore Savoia Benincasa, un liceo scientifico, liceo linguistico, istituto tecnico economico e del turismo. I ragazzi qui lavorano su robotica e realtà virtuale, in classe si spostano con banchi dotati di rotelle per muoversi liberamente, la didattica si ispira a metodologie apprese ad Harvard e al MIT di Boston e in questi giorni di stop alle scuole, via a lavagne in condivisione, documenti scaricabili sulla piattaforma gratuita, esercizi collaborativi, perché il Savoia Benincasa fa parte delle scuole fondatrici delle avanguardie educative che in questi giorni ha lanciato un manifesto. Sentiamo la dirigente scolastica Alessandra Rucci al microfono di Maria Piera Ceci. È un manifesto che è stato scritto nel cuore della notte. Il manifesto è il manifesto della scuola che non si ferma e vuole essere una grande spinta di energia per tutte le scuole d'Italia in questo momento. Si articola intorno ad alcune parole chiave, sono delle parole molto belle, crescita, perché la scuola è il luogo della crescita e l'emergenza in questo momento ci sta facendo crescere tutti e imparare cose nuove, comunità, perché è indispensabile e fondamentale in questo momento di distanza sociale ritrovare il senso della comunità, responsabilità, perché naturalmente anche la didattica a distanza richiama nuove forme di responsabilità per gli studenti. Sistema, perché questo momento si può fronteggiare soltanto se le azioni di didattica innovative diventano azioni comuni e non improvvisate. Rete, perché in questo momento il segreto fondamentale per le scuole è darsi la mano, è gemellarsi, cercare aiuto da chi ha maggiore esperienza, e da ultimo innovazione, perché tutto questo ci porta a ripensare profondamente il nostro modo di fare scuola e quindi a capire che innovare è indispensabile. Per chiudere, lo sport, pandemia scuote, come ormai sappiamo, anche il mondo dello sport nel suo complesso. Il moto mondiale è ulteriormente rinviato al 3 maggio in Argentina, al via del campionato MotoGP, mentre il calcio europeo si trascina tra rinvii e gare a porte chiuse. Sono state annullate anche le gare di sci, di Coppa del Mondo di sci femminile, previste nel fine settimana a Are in Svezia. Per effetto di questa decisione, Federica Brignone conquista la Coppa del Mondo. Poi ne parleremo anche dello sport. Intanto vi ricordo, per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Noto oppure il 349-238-6666. Voglio leggere un messaggio, almeno tra i tanti. Filippo da Latina, non per autoelogiarsi, ma insomma dice: grazie veramente di cuore, dottoressa Giordano, per essere in onda in prima linea, per darci le notizie così vitali in questo momento così difficile. Scrive Filippo: la sua salute per noi ascoltatori è importante, abbia la massima cura. Intanto ringrazio Filippo di questa importanza che dà alla mia salute. Vi assicuro comunque che ovviamente i veri eroi e le vere eroine sono coloro che lavorano negli ospedali, gli operatori sanitari in genere, però vi assicuro che anche l'informazione in questo momento non è facile, anche soprattutto per un programma come il mio, in cui veramente mi aggiorno minuto per minuto con tutti i dispacci di agenzie, i siti eccetera, le informazioni che arrivano, per raccontarvi poi a fine giornata tutto quello che ritengo che sia più importante che sappiate dall'Italia e dall'estero. Poi, da quando c'è questo benedetto maledetto coronavirus, tutto diventa ancora più faticoso, ma questo è il nostro compito, e per quanto mi riguarda, per me personalmente, un compito prioritario a fine giornata darvi tutto quello che è necessario per essere consapevoli di quello che succede. Con questo ci sentiamo tra pochi istanti. One Express, il pallet espresso. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E nonostante tutto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, nonostante sia appunto una situazione molto complessa, 60 minuti questi, qui Effetto Notte, sempre ricchissimi, tutte le informazioni necessarie affinché a fine giornata abbiate un quadro il più possibile esauriente delle cose più importanti, che purtroppo per lo più sono tutte legate alla epidemia, pandemia, che è diventata, secondo la dichiarazione oggi dell'OMS, di coronavirus. E ci sarà tra pochissimo il professor Pregliasco, che ormai conoscete bene, tra i migliori e maggiori virologi in Italia e anche nel mondo, perché i nostri scienziati sono estremamente validi, come vi siete accorti, e anche di grande resistenza, perché così presenti e in questi giorni sono loro che danno a noi informazioni, a nostra volta a voi e poi anche al governo, insomma, le indicazioni, le valutazioni per poter prendere di volta in volta decisioni, anche perché ormai si sta navigando a vista, è un virus che, insomma, di cui si hanno veramente poche certezze. Per i vostri messaggi vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349 238 6666. C'è questo ascoltatore, che cosa scrive? Ci sono tantissimi i vostri messaggi, altri che mi dicono di avere cura della mia salute, spero, insomma, cerco di fare quello che posso. E poi invece questo ascolta Francesca, dice: stavo tornando da casa a fare la spesa, ho sentito uno stralcio di una telefonata di una persona che, mi pare di aver capito, parlava di una 3 giorni al mare. Per carità, lecito, ma ora non mi sembra proprio il caso, speriamo in più buon senso, dice Francesca. Passava, evidentemente ha sentito che c'era vicino a lei una persona che diceva che passava 3 giorni al mare. C'è anche chi va in Val d'Aosta, in Monte Bianco, c'è chi si sta divertendo parecchio, ma pare che sia arrivata anche lì la polizia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Questa è la dichiarazione laconica ma inequivocabile, anche se in inglese chiaramente per farsi capire da tutto il mondo, del direttore generale dell'OMS Ghebreyesus. Nella conferenza stampa di oggi ha detto che quella del coronavirus è diventata da epidemia una pandemia. Nei giorni, nelle settimane a venire, ha detto il direttore generale dell'OMS, prevediamo un aumento del numero di casi e del numero di morti e del numero di paesi colpiti. Allora chiedo subito l'intervento prezioso del professor Fabrizio Pregliasco, che è virologo presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano. Professor Pregliasco, buonasera. Eccoci qua, buonasera a tutti. E grazie della sua infinita disponibilità. Lei cosa mangia, professor Pregliasco, per essere sempre così sul pezzo, sempre tonico? Ma sono messo male. male, comincio a perdere pezzi, no, anche in famiglia cominciano a preoccuparsi. Per carità, almeno lei, insomma, le persone importanti da questo punto di vista devono tenersi in forma. Ecco, professore, a proposito appunto di questa dichiarazione dell'OMS, che intanto che cosa cambia, cosa significa passare dalla dichiarazione di epidemia a pandemia? Allora, l'OMS ovviamente non ha un potere sovranazionale in termini di azione diretta e coercitiva, ma sicuramente ha dei finanziamenti, può chiederle tramite le Nazioni Unite, ma anche qui è da un po' di anni che comincia ad avere anche lei un po' di scarsità di finanziamenti, però senz'altro questo aspetto intanto chiude la bocca ai negazionisti e quant'altro e rimarca l'importanza di un lavoro collaborativo fra i vari stati. È ovvio che ogni stato ha i suoi interessi, adesso i cinesi non vogliono più neanche gli italiani che vanno lì, perché anche noi siamo diventati un problema a nostra volta. Prima l'abbiamo fatto noi e ora ci si viene riversato come legge del contrappasso. Quindi diciamo è una condivisione di più esperti a livello internazionale che certifica in qualche modo una diffusione in comunità di questa, ma era ben evidente almeno, ormai anche nazioni che erano un po' indietro rispetto a noi, Germania, Francia, Inghilterra, Stati Uniti stessi, adesso guardando le loro curve, come si dice, di diffusione, vediamo paro paro ciò che è successo a noi 7, 8, 10 giorni fa. Quindi il professor Pregliasco dice che quello che è successo adesso in Italia in anticipo in realtà sta succedendo anche negli altri paesi? Esatto, esatto, questo è quello che si vede proprio, ho visto appunto alcuni grafici che riguardano proprio l'andamento in Germania e in Italia, sembra la stessa progressione, ma è un classico perché le epidemie nella fase espansiva esponenziale hanno questa moltiplicazione, 1 diventa 2, 2 diventa 4, 4 16, 32, va a una quantità incredibile di casi. Professore, mi dica una cosa, ma questo quindi significa anche il fatto di passare da epidemia a pandemia che gli stati possono prendere misure più drastiche o hanno il diritto di chiedere un sostegno anche da un punto di vista economico-finanziario? No, perché nemmeno l'Europa, per volere a suo tempo di Germania, Francia, l'Italia a suo tempo cercò di dire che l'Europa dovesse avere delle incombenze, delle come dire, attività per quanto riguarda la sanità, in realtà solo l'European Center Disease Control a Stoccolma, che però anche qui è un po' come l'OMS su scala europea, molto bello, ci sono amici molto bravi che seguono l'andamento epidemiologico, danno informazioni, scambiano informazioni, ci scambiamo informazioni, però di fatto si è visto l'Europa su questo aspetto è un filino ferma, ma non è colpa dell'Europa, è colpa del fatto che per scelta, per l'importanza della sanità che si vede in questi casi, no? Ora non troviamo mascherine perché anche i turchi hanno detto che le mascherine servono a loro e ovviamente alcuni grossi produttori per esempio sono lì e quindi noi siamo un po' nelle canne riguardo ai dispositivi di protezione individuale, ma ci sta perché in questi casi no, si vede no, sia a livello dei singoli che delle collettività magari comportamenti eroici o spesso invece un egoismo, una paura, insomma la filmografia sì, la conosciamo. Fa vedere queste cose professore, e qui la vediamo dal vivo. Senta, invece sappiamo che per quanto riguarda le misure prese dall'Italia, l'OMS ha detto siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall'Italia, però a questo proposito sappiamo che tra il fine settimana e lunedì sera sono state man mano prese dal governo decisioni sempre più restrittive, no? Estese poi a tutto il territorio nazionale. Adesso, come sappiamo, c'è il presidente della regione Lombardia Fontana, ma anche Zaia, Cirio, presidenti del Veneto, del Piemonte, ma anche quindi dall'opposizione centrodestra, ma anche sul fronte del centrosinistra, diversi amministratori che chiedono provvedimenti molto più drastici. La Lombardia chiede il modello Codogno per tutti, cioè veramente di chiusura dei negozi, dei servizi non essenziali. Poco fa l'annuncio che Conte darà indicazioni, farà aggiornamenti molto molto importanti. Si va verso quindi qualcosa di più rigido e più rigoroso, professor Pregliasco, ulteriormente come misure? Dal punto di vista della sanità pubblica e quindi raccontato ai miei studenti nel corso su questo argomento, Ovviamente non si può far altro che dire ogni cosa che rende i contatti meno possibili, meno frequenti, ha un'efficacia maggiore. È ovvio che nel mondo reale l'aspetto politico, la sostenibilità, la fattibilità e la tenuta di meccanismi di lockdown, come si dice in inglese, insomma di quarantena, sono difficili. Ho capito in questi giorni, non ne avevo la contezza, ma sulla filiera alimentare che possa garantirci la continuità di riempire nell'arco di 5-6 ore gli scaffali che stiamo ad oggi inutilmente svuotando in modo eccessivo. Ci sono circa 3,6 milioni di lavoratori in tutta la filiera, da chi produce a chi manipola, a chi distribuisce, eccetera. E quindi questi 3,6 milioni di persone possono stare ferme per un certo periodo, ma poco. Quindi no, la realtà dei fatti su una scala nazionale di un qualcosa diciamo così stringente può funzionare, però vuol dire che fra 10 giorni allora sì che litigheremo per l'ultima pasta liscia, no? Le penne lisce che pare siano state quelle meno prese d'assalto. Però professor Pregliasco, pare che per quanto riguarda i supermercati, probabilmente anche i negozi alimentari dovrebbero rimanere aperti, le farmacie, quindi i beni essenziali. Sì, ma non però, è solo il negozio, è tutta la filiera. La filiera di chi ci lavora, di chi produce, insomma, dice. Infatti capiremo tra poco, appunto, appena parlerà Conte. Senta, a proposito del bollettino invece italiano, purtroppo sono 10.590 i malati, diceva oggi Angelo Borrelli della Protezione Civile, 2076 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, è 12.462. Le vittime sono complessivamente 827, rispetto a ieri sono 196 in più, 1045 i guariti. Per quanto riguarda Lombardia, girava una percentuale di letalità, di mortalità un po' inquietante, si parlava addirittura dell'8% di mortalità in Lombardia, le risulta, professor Pregliasco? Ah sì, in effetti, cioè anche come quota di persone che necessitano l'assistenza respiratoria. Ma qui il problema è anche la letalità, tutti questi indicatori sono il numero di casi, di morte o di ricovero in rianimazione fratto, diviso in quanti sono i casi notificati. Noi lo sappiamo, in ogni epidemia i casi sono sottostimati perché una quota a parte non arriva alla cosiddetta notifica formale, no? Una patologia come questa, così variegata, con forme diverse, più o meno pesanti, con una oggettiva diciamo non disponibilità sistematica ad eseguire il tampone, fa sì che noi calcoliamo un di cui, cioè i casi più pesanti e la percentuale di casi più pesanti che hanno esiti più tristi. Professor Pregliasco, quest'ultima domanda poi la lascio, che anche lei si deve riposare. Allora, a proposito di farmaci, vedevo che adesso si sta sperimentando all'Istituto Pascale di Napoli un farmaco antiartrite che pare stia funzionando su 2 pazienti, mentre a Milano, Padova e Pavia ci sono dei test su 1000 pazienti per valutare l'efficacia di un farmaco che è il Remdesivir della Gilead Science, una società biofarmaceutica della California che vuole coinvolgere in questa sperimentazione l'azienda ospedaliera di Padova, l'ospedale Sacco di Milano, l'ospedale San Matteo di Pavia. E che cosa possiamo dire, che cosa ci può dire, professore, a proposito di questa sperimentazione? Appunto, vedo e anche nel mio ospedale si sta facendo questo, si tratta quello che diciamo noi di uso ad oggi compassionevole, cioè di uso fuori etichetta, ma interessante per poter cominciare a fare delle ipotesi e degli studi che possono avere poi una dimensione, una standardizzazione utile per poter confermare innanzitutto la sicurezza e quindi l'assenza di eventi avversi e l'efficacia, per poter poi valutare se davvero dovesse essercene, come probabile, una necessità d'uso su larga scala della convenienza, perché ovviamente un evento così epocale come una pandemia necessita poi grande quantità di denaro, e quindi in questo senso no, non si può scherzare rispetto anche al costo e alla scelta costo-beneficio di un farmaco piuttosto che di altri. Un'ultima ultimissima domanda, professor Pregliasco. Dovrebbero arrivare in Italia 7 esperti cinesi, sono attesi in questi giorni. Ci possono dare un forte contributo? Ah, sicuramente chi è stato in trincea racconta vita vera e le difficoltà e quello che stiamo anche trovando noi in termini di scelte, di cose e ovviamente la collaborazione, un po' quello che l'OMS dichiarando la pandemia vuole facilitare, quindi un confronto, una, diciamo, un confronto di buone pratiche o di errori, se fatto in modo trasparente è un modo di crescere, non di giudicare cosa si è fatto, ma di capire dall'esperienza, insomma direi che il buon senso ci dice che è utilissimo. Grazie professor Fabrizio Pregliasco, si riposi, mi raccomando, che domani è un altro giorno. Infatti, una buona serata, una buona notte a tutti. Grazie anche a lei. Grazie professore, a presto. E adesso c'è una pausa giusto di riflessione, voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, torno ratta come la folgore perché dovrebbe parlare a momenti Conte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete senz'altro al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano, se volete la giusta conduttrice, per sapere tutto quello che c'è di cui essere consapevoli, soprattutto in questi giorni, poi sulle notizie legate al coronavirus. Qui ogni sera le trovate, ve le racconto insieme agli ospiti. Abbiamo appena approfondito l'aspetto più sanitario, diciamo, con il professor Fabrizio Pregliasco. A momenti dovrebbe parlare il presidente del Consiglio Conte, che evidentemente dietro la richiesta pressante in questi giorni della Lombardia, del presidente Fontana, ma anche di altri presidenti di regione, dell'opposizione e in parte anche da amministratori del centrosinistra, forse dovrà dare aggiornamenti su indicazioni ancora più, misure più drastiche rispetto a quelle già prese prima per la Lombardia e poi per tutto il territorio nazionale. Comunque appena succederà ovviamente vi farò sentire la conferenza stampa. Per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Vedo un sacco di vostre domande che non ho fatto tempo naturalmente a porre al professor Pregliasco, ma ci sarà purtroppo ancora tempo. E poi vedete che le cose possono cambiare anche di momento in momento. A chi dice ma nel Sud America probabilmente sono al riparo per il caldo, in realtà è stato detto più volte che purtroppo questo virus potrebbe anche non scomparire con l'estate, ma man mano ci aggiorneremo. Cara Italia, cari italiani, in questo momento così difficile vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus che non siete soli. L'Italia è parte dell'Europa e l'Europa soffre con l'Italia. In questo momento, in Europa, siamo tutti italiani. E questo è stato il video messaggio che ha voluto fare in italiano di grande solidarietà la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. E su questo saluto il nostro Alberto Rioli, Vice Direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti. Naturalmente una solidarietà così di cuore nella sua comunicazione, ma anche poi ci auguriamo nei fatti. Sentiamo anche l'ammirazione che esprime per l'Italia, per quello che il governo italiano, che gli italiani stanno facendo. Il vostro sforzo e il vostro esempio sono preziosi per tutti i cittadini europei. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione, ma anche con profondo rispetto e ammirazione, quello che state facendo. Quindi Alberto, Ursula von der Leyen già in questi giorni ha assicurato che per l'Italia ci sarà tutta la flessibilità possibile. Intanto il governo italiano sta prendendo varie misure anche dal punto di vista economico, finanziario, di sostegno alle imprese, alle famiglie, a un sistema economico che rischia un po' di collassare sotto il peso del coronavirus, e c'è già uno stanziamento annunciato di 25 miliardi, no Alberto? Assolutamente sì, questo è il bazooka, diciamo così, che il governo mette in campo perlomeno per tamponare l'emergenza, garantendo liquidità alle imprese, in forme di ammortizzatori sociali ai lavoratori e qualche sussidio alle famiglie che vedono così sconvolta la loro normale routine della vita quotidiana. È sicuramente un intervento appunto di pronto soccorso per la nostra comunità molto importante, che per adesso appunto tampona i danni di un virus che sta devastando l'economia del pianeta e non solo. È chiaro che in futuro bisognerà congegnare qualcosa, una fase 2 più legata alle potenzialità di investimento che il paese deve mettere in campo per recuperare il terreno perduto, per riuscire a tamponare i danni che nel frattempo saranno stati fatti. Purtroppo in questa prima parte dell'anno il nostro paese sarà palesemente in recessione e alcune imprese rischiano molto, soprattutto quelle con meno capacità di resistenza e che sono più esposte poi alla mutevolezza delle commesse internazionali, perché se perdono le commesse in questo periodo non le ritrovano più, e come è accaduto nel 2008 per la crisi di Lehman Brothers, è una grossa parte della nostra manifattura, diciamo così, non è riuscita a superare quella fase, almeno oltre il 20% allora della base produttiva fu costretta a lasciare il campo perché non aveva o l'upgrade tecnologico sufficiente a restare competitiva o non era riuscita a rientrare nel grande gioco poi delle commesse internazionali, della globalizzazione, quindi era sostanzialmente uscita di scena. Ti farei sentire, Gualtieri, Ministro dell'Economia, ci sono vari passaggi, sentiamo questo intanto. La finanza pubblica italiana è sostenibile, come dimostra il miglior risultato registrato a consuntivo 2019, quando, come ha certificato l'Istat, l'indebitamento netto è sceso all'1,6% del PIL, il valore più basso degli ultimi 12 anni, inferiore di oltre mezzo punto percentuale sia al dato del 2018 sia alle previsioni elaborate ad ottobre. L'aumento del disavanzo per il quale il Governo chiede l'autorizzazione è frutto della situazione straordinaria che stiamo vivendo e non mette a repentaglio la sostenibilità di lungo termine delle nostre finanze pubbliche. Sentiamo ancora il Ministro dell'Economia Gualtieri che dice che bisogna mobilitare tutte le risorse. Occorre innanzitutto mobilitare tutte le risorse per garantire all'azione di contrasto all'epidemia la necessaria dotazione di personale, strumenti e mezzi. Dobbiamo fare ogni sforzo per sostenere il sistema sanitario, la protezione civile, le forze dell'ordine. Alberto, poi ha detto l'obiettivo naturalmente anche non far perdere il lavoro a nessuno. Oggi l'assessore alla salute, al welfare della Lombardia, Gallera, ha detto: noi non vogliamo fermare il cuore della Lombardia volendo chiudere tutto, ma rallentarlo. E siamo in questo diciamo non voluto conflitto tra la necessità di contenere il virus, quindi di salvaguardare al massimo la salute di tutta la popolazione, e dall'altra però di non affossare l'economia. È un equilibrio difficilissimo questo, per chiudere, da sostenere, no? Purtroppo sì, quando si arriva a queste curve della nostra convivenza civile diventano dei dilemmi che nessuno mai vorrebbe affrontare, ma forse sono anche dei dilemmi che non sono tali in verità, analizzandoli poi nel dettaglio, perché le due cose non sono incompatibili. Chiaramente ci sono modalità di lavorazioni che garantiscono appunto le norme che ci stanno dicendo essere fondamentali del distanziamento sociale e della rarefazione delle possibilità di contagio, perché chiaramente molte aziende stanno facendo smart working, laddove ciò significa che i lavoratori sono in un'autoquarantena, lavorando da casa non si muovono da lì. E in altri contesti più legati a filiere produttive, chiaramente che non possono fare del tutto lavorazioni in remoto, si stanno organizzando con lo smaltimento di scorte senza portare la produzione, oppure di spostare l'impatto della produzione in altre aree dove magari al di fuori dell'Italia. L'importante è che resti fluida, per esempio, la catena internazionale del valore, la possibilità di compensazioni tra uno stabilimento che sta magari nei distretti del Lombardo-Veneto e un suo omologo che sta magari dall'altra parte dell'Adriatico o molto più lontano. Ecco, queste sono le cose su cui sono impegnati i manager delle moltissime imprese che naturalmente costellano queste realtà, perché non dimentichiamolo, che ne so, solo per fare un numero, solo in Lombardia ci sono 850.000 imprese, occupano 4 milioni di addetti. È chiaro che c'è un quinto del PIL del paese. Se il virus imponesse una quarantena totale, una glaciazione proprio della socialità e dell'economia, senza nessuna possibilità di deroga, andrebbe a fondo la parte più la locomotiva del paese. Questo sarebbe molto pericoloso. Vediamo a momenti, Alberto Rioli, che cosa, se riusciamo entro l'effetto notte, se no si sentirà poi nei giornali radio, che cosa dirà Conte tra poco, visto che ha annunciato questi importanti aggiornamenti. Grazie Alberto Rioli, vice direttore di Sole 24 Ore. Ciao. Grazie Alberto. A voi. Ciao, grazie, buon lavoro. Via Brit. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Bene, sono contenta, state ascoltando Effetto Notte perché vuol dire che siete a casa, dice un ascoltatore. Voi dovete fare, oltre all'informazione, anche educare al senso civico. È una campagna che continuiamo a fare, ho fatto sentire anche naturalmente i vari artisti, uomini e donne che stanno aderendo a questa campagna del governo e che dicono: io resto a casa, ed è a casa che dovete rimanere. Quelli che non ascoltano Effetto Notte a casa, voglio sperare che siano in auto solo per questioni professionali, naturalmente, o perché per questioni sanitarie, che ovviamente mi auguro non li riguardino troppo da vicino. Sta parlando però Conte, è appena iniziato in questo momento, sentiamolo. Amate libertà, ero consapevole che si trattava di un primo passo e ragionevolmente non sarebbe stato l'ultimo. Oggi è chiaro, siamo consapevoli che in un paese grande, moderno, complesso come il nostro bisogna procedere gradualmente affinché non tutti possano comprendere il difficile momento che stiamo vivendo e anche predisporsi per accettare i cambiamenti richiesti. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante: l'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici, chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Per quanto riguarda le attività produttive, le attività professionali, va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti per i dipendenti, restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione. Industrie e fabbriche potranno ovviamente continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori al fine di evitare il contagio. Sono incentivate le fabbriche e le industrie a predisporre misure che siano adeguate per reggere questo momento, quindi regolazione dei turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili. Resta ovviamente garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti, dei servizi di pubblica utilità, dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, nonché di tutte quelle attività necessarie, comunque accessorie, rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività. Quindi continueranno le loro attività nel rispetto ovviamente della normativa igienico-sanitaria. La regola madre rimane la stessa. Dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative per motivi di salute o per motivi di necessità, come il caso di fare la spesa. È importante essere consapevoli che abbiamo cominciato da poco a cambiare le nostre abitudini. L'effetto di questo nostro grande sforzo potremo vederlo solo tra poche settimane, un paio di settimane. Nessuno quindi deve pensare che già domani, nei prossimi giorni, potremo misurare l'impatto di queste misure. Per avere un riscontro effettivo dovremo attendere quindi queste un paio, come dicevo, di settimane. E questo è molto importante. Quindi lo voglio dire, se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa niente affatto improbabile, non significa che dovremo affrettarci a varare nuove misure. Non dobbiamo fare una corsa cieca verso il baratro, dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. A breve nominerò anche un commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere a questa emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà ampi poteri di deroga, che lavorerà per rafforzare soprattutto la produzione, la distribuzione di attrezzature per terapie intensive e subintensive. Avrà anche il potere di creare nuovi stabilimenti, di impiantare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature e per sopperire alle carenze sin qui riscontrate. La persona che nominerò sarà il dottor Domenico Arcuri, che è amministratore delegato di Invitalia e si avvarrà di questa struttura già consolidata, già esperta nel settore industriale, si coordinerà con il dottor Borrelli e con la struttura attuale della Protezione Civile. Permettetemi di aprire una parentesi e di ringraziare tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile e il dottor Borrelli per l'incredibile lavoro che stanno qui facendo. E voglio dirvi un'ultima cosa: se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici per tutta la durata di questa emergenza. Siamo parte di una medesima comunità. Ogni individuo si sta giovando dei propri, ma anche degli altrui sacrifici. Questa è la forza del nostro Paese. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Bravo. Ecco, avete sentito quindi l'annunciata conferenza stampa di Conte dopo quella di lunedì. Oggi ha parlato di misure ancora più restrittive per tutto il territorio nazionale, la chiusura quindi di tutti i negozi, le attività commerciali che non sono essenziali, resteranno però aperti naturalmente i supermercati, i negozi alimentari, le farmacie, i servizi bancari, assicurativi, i trasporti anche naturalmente. E poi le industrie e le fabbriche, purché ha detto siano preservati i protocolli che sono previsti per garantire a tutti coloro che lavorano, a tutti i lavoratori, insomma, la massima sicurezza, salvaguardare naturalmente la salute prima di tutto. E ha detto che bisogna mantenersi lucidi, rigorosi, responsabili. Ha detto che nei prossimi giorni anche assolverà questa richiesta che è stata fatta di un super commissario a questa emergenza, e ha già detto quale sarà il nome, quello di Domenico Arcuri. Dice: se saremo tutti insieme a rispettare queste regole come una vera comunità, ne usciremo più velocemente. Stando distanti oggi, riusciremo ad abbracciarci con più calore domani. Ecco, è stata un po' questa la conclusione del Presidente del Consiglio Conte. Nel frattempo eravamo collegati con New York, dove c'è il nostro Marco Valsania. Ciao Marco, così hai ascoltato anche tu da New York il Presidente del Consiglio. Ciao Marco. Sì. Senti, invece a Ciao. Te avevo in scaletta di chiederti della condanna dell'ex re di Hollywood, del ex produttore cinematografico. Vediamo che cosa c'è. C'è qualcuno che sta parlando dagli ospedali, per caso? Anch'io, tutti i volontari, tutte le associazioni di volontariato che in questi giorni sono ringraziamenti naturalmente per la Protezione Civile, per tutti gli operatori sanitari. Marco, riesci a dirci in un minuto, insomma, di questa condanna che è arrivata per Harvey Weinstein? Sì, è stata una condanna dura, quasi il massimo della pena, 23 anni di carcere ha deciso il giudice della Corte Suprema di New York per i due reati di violenza sessuale e di stupro per i quali Weinstein era stato condannato il 24 febbraio. Il massimo della pena sarebbe stato 29 anni. Chiaramente Weinstein e i suoi avvocati difensori avevano già preannunciato e continueranno a perseguire un appello, ma la condanna sicuramente lancia un forte messaggio di messa, appunto, di condanna e di messa al bando della violenza alle donne, un successo, diciamo, significativo legale e nella società per il movimento #MeToo, che negli ultimi anni è cresciuto e ha portato alla luce sempre più numerosi episodi di abusi sessuali, anche perché Marco, proprio i giudici hanno detto alle spalle, si è meritato questi 23 anni alle spalle una vita di abusi, quindi 23 anni di prigione per Harvey Weinstein, accusato di essere di aggressione sessuale e stupro di terzo grado. Qui ci dobbiamo lasciare, Marco Valsania, grazie da New York. Grazie a voi. Ciao Marco, avete sentito il discorso del presidente Conte, vi aggiorno brevemente alle 22.